si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buona domenica cari ascoltatori, ben ritrovati con Si Può Fare. Buongiorno da Alessio Maurizi, eccoci qua. Vi ricordo subito intanto i nostri contatti, se volete interagire con noi in tempo reale, l'account Twitter del programma è @ Si Può Fare 24, il mio @ Ale Maurizi. E poi vi ricordo che la parola chiave per intervenire questa settimana nel gioco Inviati Cercasi, con il quale ogni settimana raccogliamo i vostri racconti più belli, li mandiamo in onda in diretta il sabato, la parola chiave è cultura. Ebbene sì, cultura. Se ha aperto un cinema, un teatro nella vostra città, nel vostro quartiere, c'è una nuova orchestra, una nuova banda musicale nel vostro paese, volete invece parlarci della libreria o del museo che amate di più, scriveteci a sipoffare@radio24.it. avete tempo fino a mercoledì per andare a caccia di buone notizie. Il racconto più bello lo sentiremo sabato prossimo. Adesso andiamo ad iniziare. The good news! E come ogni mattina andiamo a caccia di buone notizie all'inizio del programma. Questa volta l'iniziativa viene da Arezzo e si chiama Angeli della Città, sempre nel filone dell'amministrazione condivisa tra le istituzioni e i cittadini. Cittadini che vogliono fare del volontariato, vogliono occuparsi per esempio degli arredi urbani, della tutela ambientale, del decoro della città, o anche di piccoli pezzi di parco o di giardini che stanno magari di fronte a casa loro, che sono pubblici ma sono in stato di abbandono, o se ci sono le scritte sui muri che non piacciono nella strada dove si abita. Ebbene, con questo progetto Angeli della Città, la città di Arezzo aprirà un bando per chi volesse partecipare e fare questi lavori di manutenzione, di decoro pubblico, insieme appunto all'amministrazione comunale. L'iniziativa Angeli della Città, il bando aperto in questi giorni da parte del Comune di Arezzo, si trova sul sito del Comune di Arezzo. E vi ricordo anche che nella puntata di oggi avremo un ospite dopo le 10, cioè tra un'ora e mezza circa. Sentiremo Davide Van der Sfross col suo ultimo disco Goga e Magoga, e ci parlerà tra l'altro anche dei suoi incarichi, perché è direttore artistico del tour che sta facendo Expo 2015 in questi giorni tra le città della Lombardia, e quindi un bell'ospite più avanti. Cominciamo invece a dare un'occhiata alle prime pagine, ai giornali di oggi. Per chi non avesse sentito già la rassegna stampa di Giulia Crivelli in diretta che ci ha preceduto questa mattina, ci sono un po' di interviste, di dichiarazioni importanti, tutte sul tema della riforma, naturalmente titoli dedicati anche all'assurdo, all'assurdità che è accaduta ieri a Roma prima della finale di Coppa Italia. Colpi di pistola e minacce, il calcio violento degli ultra, scrive il Corriere della Sera, un ferito molto grave, sospetti sul tifoso che disse a Totti di non giocare il derby. Poi il Napoli, per la cronaca calcistica, batte la Fiorentina e vince la Coppa. Il Corriere però pubblica in prima pagina una lettera di Silvio Berlusconi sul tema delle riforme. La vera riforma è il presidenzialismo, scrive Berlusconi. Leggiamo qualche passaggio. Caro direttore, tra i paradossi di questa fase storica c'è anche quello di far passare per sabotatori delle riforme gli unici che possono rivendicare di averne fatta una. La famosa riforma del 2005 bocciata, dice Berlusconi, dal irresponsabile sinistra con il referendum del 2006. Ancora quindi Berlusconi che guarda al passato da questo punto di vista. Poi però guarda anche al presente e dice l'ascesa di Renzi alla presidenza del Consiglio, avvenuta in modo non democratico in quanto priva del passaggio elettorale, sembrava aprire una fase nuova nell'incontro. E qui torna sul famoso incontro in cui è stato buttato giù il primo tavolo per queste riforme. Nell'incontro del Nazareno del 18 gennaio abbiamo appoggiato senza riserve l'idea di riaprire il cantiere delle riforme, ma quello era un incontro politico, attenzione, qua ci sono le parole nero su bianco di Berlusconi, non un tavolo tecnico. Una apertura di credito reciproca che per quanto ci riguarda sussiste ancora pienamente, sebbene sia difficile collaborare con qualcuno che ti dice che comunque deciderà anche senza di te. Non possiamo tuttavia non sottolineare che da mesi ormai non si parla più di sindaco d'Italia, di premierato, di presidenzialismo. Queste riforme sono sparite. Nelle proposte avanzate dal PD il tema fondamentale dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte dei cittadini è scomparso. mentre sono rimaste in agenda questioni certo importanti ma pur sempre di contorno: le province, la legge elettorale, una riforma del Senato di cui si stenta a comprendere la filosofia di fondo. Tutto ciò ha prodotto un esito sinora deludente. Questo è il punto di vista di Berlusconi, che ritira fuori il presidenzialismo, lasciando intendere forse in qualche modo che di questo si fosse parlato anche al tavolo famoso del Nazareno, l'incontro del Nazareno. Però, a dire la verità, dalle dichiarazioni pubbliche uscite dopo quell'incontro non sembrava che si fosse parlato di presidenzialismo, di premierato, di cose del genere. Quindi tirarlo fuori adesso sembra un po' cambiare le carte in tavola, o quantomeno rilanciare la vecchia passione di Forza Italia, che appunto è il presidenzialismo, ma che non è invece mai stato nelle intenzioni del Partito Democratico, almeno di tutto il Partito Democratico e di dichiarazioni ufficiali. Da un'intervista, da una lettera, quella di Berlusconi, a una intervista al ministro Delrio sul Sole 24 Ore di oggi, l'intervista di Fabrizio Forché. Delrio dice: per gli statali premi legati al PIL, ma c'è anche una, come dire, una messa a punto un po' di tutto il tema delle riforme. Sottosegretario, gli annunci sono tanti, tantissimi, spesso vanno nella direzione giusta, ma le leggi per ora sono pochine. Non direi, tra decreti, disegni di legge, provvedimenti attuativi abbiamo fatto molto. In alcuni casi siamo arrivati al traguardo, in altri siamo alla fase decisiva. E ricorda Delrio: abbiamo finalizzato il riordino degli enti locali con il superamento delle province, abbiamo trovato l'intesa e portato in Parlamento la riforma elettorale dopo anni di discussioni. Su temi più strettamente economici abbiamo approvato l'importante decreto del lavoro e poi abbiamo messo i famosi 80 euro in busta paga a 10 milioni di italiani. La CGIL, domanda Forché, ha criticato molto la soluzione finale sul decreto lavoro. Confermo, dice Delrio, che la soluzione mi pare buona, ed è anche il tema oggi sui titoli dei giornali delle dichiarazioni di ieri di Renzi, che dice: i sindacati non mi fermano, dunque la linea del governo è andare dritti e eventualmente anche arrivare a uno scontro, se ci dovesse essere, con i sindacati. Si parla del rischio costituzionalità per l'aumento del prelievo sulle quote della Banca d'Italia. Ricordate il famoso provvedimento che fece scattare la ghigliottina da parte del Presidente della Camera Boldrini e le ire del Movimento 5 Stelle a fine anno? Dice Delrio: siamo convinti che quella sia stata una scelta giusta, sia da un punto di vista politico che tecnico. E poi c'è un nodo importante sulle coperture. Dice Forché: non sono mancate le critiche, troppe una tantum e ancora pochi tagli alla spesa. Ogni provvedimento deve avere il veicolo che merita, dice Delrio. Un intervento strutturale sul fisco si fa con la legge di stabilità, con un decreto non si fa una copertura triennale. Quindi ammette che il decreto non fa la copertura della misura, rendendola strutturale, quella del bonus di 80 euro. Dice Forché giustamente: così però la legge di stabilità parte la prossima con una zavorra di 10 miliardi di euro da trovare, a meno che non si voglia rinunciare al bonus per i prossimi anni. L'osservazione, dice Delrio, è legittima, ma noi contiamo molto sul denominatore, cioè sulla crescita. A questo punto abbiamo capito che anche nelle parole ufficiali del ministro, che i famosi 80 euro in busta paga diventeranno strutturali quasi esclusivamente solo se l'economia si rimetterà a crescere, altrimenti sarà difficile trovare per i prossimi anni le coperture per rendere questa cosa strutturale. Cioè, le coperture sono i soldi, fondamentalmente. Ancora una intervista sempre sul tema delle riforme, sperando di non annoiare troppo. In questo caso parliamo del ministro Boschi e della legge elettorale. L'intervista è sul Messaggero. Il tema è lo stesso, toccato alla lettera di Berlusconi, e il punto di vista in questo caso è quello del governo. Ministro Boschi, sembra che si siano perse le tracce della legge elettorale. Era il punto cruciale di tutto, ormai la farete a settembre. Ma perché, scusi, a settembre? Risponde il ministro delle riforme. Abbiamo già approvato la legge in prima lettura alla Camera e già questo è un fatto straordinario. Poi abbiamo dato la precedenza alla riforma costituzionale. Torneremo all'Italicum e possiamo approvarlo prima dell'estate al Senato. Ma se Berlusconi arriva terzo alle elezioni europee, non smonta l'Italicum? Perché sapete che il tema è questo, che se Forza Italia diventa secondo partito, terzo partito anziché il secondo, dietro al PD, sorpassato anche da Grillo, il dubbio è se Forza Italia abbia ancora voglia di farla questa riforma. E il ministro Boschi infatti ammette: aspettiamo di vedere che cosa accadrà il 25 maggio. Poi dice: sono convinta che Forza Italia manterrà l'impegno preso prima che con il PD con i cittadini. Ma il grave problema politico è quello dell'eleggibilità o meno dei senatori. Il punto vero è la differenziazione del lavoro tra le due camere. Il Senato va a fare cose diverse e su questo siamo tutti d'accordo. Sindaci e consiglieri regionali passeranno gran parte del loro tempo nel territorio e alcuni giorni a Palazzo Madama. In Germania, per esempio, la Camera Alta si riunisce formalmente solo una volta al mese, dice il ministro Boschi. E poi l'ultima cosa sulla quanto è saldo Renzi in vista di queste elezioni europee, perché dice: il PD divora sempre i suoi leader, o Renzi stravince le europee o comincia già l'assalto ai suoi danni. Domanda legittima visto il passato del PD e la voracità con cui ha divorato i leader, da Veltroni, Franceschini, Bersani, tutti. Risposta della Boschi: le europee non sono in ogni caso un sondaggio su Renzi. Sto andando in giro lungo l'Italia per la campagna elettorale e le assicuro che tra i nostri elettori non c'è alcuna voglia di riaprire la battaglia congressuale, tutt'altro, c'è molta fiducia nei confronti di questo governo e molta unità nel PD. Vedremo, la base forse sì, ma i dirigenti e i parlamentari del PD chissà. Un'ultima segnalazione veloce da Repubblica riguarda il canone RAI. Rivoluzione canone, scrive Repubblica, diventerà flessibile, lo pagheremo in base ai consumi. Parole del sottosegretario Antonello Giacomelli, sottosegretario alle comunicazioni, che dopo qualche premessa sul livello di evasione troppo alto, non lo paga il 27% delle famiglie, il canone RAI dice: al posto del canone unico arriverà un'imposta flessibile ad importo variabile legata ad un nuovo indicatore che fotograferà i consumi, cioè la capacità di spesa delle persone. L'effetto è che avremo un canone più basso che in passato, almeno per le famiglie in difficoltà. E questo è un altro annuncio. Staremo a vedere, facciamo una breve pausa, torniamo tra poco, andremo a dare un'occhiata all'inserto culturale del Sole 24 Ore, il domenicale, tra un attimo. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. 24orecloud.it. Scegli di risparmiare sulla bolletta informatica aziendale. Vi presenta Strade in diretta. Sulla 14 Adriatica si rimane in coda per un incidente tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara e rimane difficile spostarsi nelle Marche dopo il nubifragio di ieri, fango e detriti in viabilità ordinaria, la più colpita la provincia di Ancona, in particolare la zona di Senigallia e Iesi, mentre sulla 14 Adriatica è chiuso lo svincolo di Val Vibrata in direzione Ancona. È tutto, noi torniamo tra circa mezz'ora. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Eccoci qua al momento di andare a curiosare tra le pagine del domenicale con il suo curatore responsabile, il direttore Armando Massarenti. Ciao Armando, buona domenica. Ciao, buona domenica a tutti. Parto subito così dalla copertina cattivante scritta da Andrea Camilleri, segnali di fumo dal posacenere. Questo però è solo la copertina. Cosa altro abbiamo? Cosa bolle in pentola oggi, Armando? Beh, diciamo, è una copertina, direi, non solo nel senso che è una copertina un po' significativa per noi, poi parleremo di un'altra cosa altrettanto significativa, perché Camilleri ha tenuto una rubrica posacenere, credo che tutti i lettori se la ricordino, che erano dei brevissimi scritti, adesso ne ha scritti di nuova, l'ha tenuta per un anno, era in prima pagina della domenica, sono delle riflessioni fulminanti, spesso veramente molto argute, quindi abbiamo riproposte una decina, o meglio proposte di nuove, perché poi dopo che ha smesso con la nostra rubrica ne ha scritti altre che sono le raccolte in un volume, quindi godetevi il Camilleri. Invece per quanto riguarda gli argomenti anche più seri, non che le riflessioni di Camilleri non lo siano, anzi a volte si intrecciano con quelle che adesso andrò dicendo, io mi ricollegherei alle cose che dicevi poco fa sulle riforme sul Senato, perché insomma, come i nostri lettori sanno, questo è un po' il nostro certo, un cavallo di battaglia importante questo. Credo che ormai ci siamo, insomma, la discussione, anche se siamo forse lontani da ciò che noi auspicavamo, anche se non mancano molti elementi che vanno nella nostra direzione. Allora noi abbiamo pensato, intanto ci sarà un ospite che è Gilberto Corbellini, che è molto importante da questo punto di vista, dal punto di vista cioè della nostra proposta di un Senato che contenga le competenze, perché Gilberto Corbellini, oltre ad essere un collaboratore da quasi 20 anni della Domenica, è un importante storico della scienza, della biologia, e ha scritto anche dei libri importanti sul rapporto tra appunto politica e democrazia, scienza e democrazia, cioè tra come appunto la politica debba tenere conto e sia anche proprio stata costruita per quanto riguarda gli stati moderni, l'ingegneria degli stati moderni, da metafore scientifiche molto importanti. Ma questo è il tema del suo articolo che abbiamo intitolato appunto Scienza delle Costituzioni, e accanto al quale c'è una riflessione. Guardate, vorrei partire proprio anche da un altro fatto di cronaca che viene abbastanza a intersecarsi con una riflessione che io faccio nel mio piccolo articolo, nella mia filosofia minima, in cui cito Machiavelli. Ora, l'Italia è sempre scena di queste alluvioni, di appena piove un po' più del dovuto, cioè vediamo delle scene abbastanza incredibili dal punto di vista della manutenzione. Allora c'è una citazione di Machiavelli, di cui è appena stato ripubblicato Il Principe in un'edizione UTET, che vi leggo, e riguarda la fortuna e la virtù, e quindi da lì vorrei partire per ritornare al nostro argomento. Dice Machiavelli, la fortuna, lo leggo in una traduzione diciamo in italiano moderno, la fortuna dimostra la sua potenza dove non è stata predisposta virtù che le resista, e dirige i suoi impeti laddove sa che non sono stati fatti gli argini e ripari per trattenerla. E se prendete in considerazione l'Italia, che è la sede di questi cambiamenti e quella che ha dato loro origine, vedrete che è una campagna senza argini e senza alcun riparo. Ecco, io credo che questa sia una metafora molto importante, molto forte, sia di molti dei problemi italiani, cioè che riguardano cosa? Riguardano la mancanza della manutenzione, insomma la normale amministrazione che spesso è molto carente, ma è tutto questo si lega al nostro tema, cioè al fatto che la politica sempre di più ha dimenticato appunto la normale amministrazione, ma anche tutte le conoscenze che sono necessarie per certo, che queste cose vengano fatte nel migliore dei modi e che gli argini appunto vengano costruiti a regola d'arte. Ecco, e che ci vale siano finalmente. E che ci siano, questo vale sia per la costituzione fisica, diciamo, del nostro territorio, del nostro paese, ma appunto anche per le istituzioni. Per le istituzioni, certo. Quindi per questo il nostro Senato dovrebbe, secondo noi... Visto che lo ha evocato, però, allora io gli darei il buongiorno a Gilberto Corbellini. Benvenuto. Buongiorno, grazie, buongiorno. Ed è proprio a lui appunto che volevo arrivare con questo ragionamento, sì, perché volevo che ci raccontasse un po' il suo articolo, che è un articolo notevole proprio perché racconta come le nostre costituzioni, le costituzioni moderne, siano appunto state costruite tenendo molto ben presente questo aspetto che abbiamo detto. Quindi la parola a Gilberto Corbellini. Ciao. Ciao. Sì, grazie, ma io mi ricaccio proprio a questo punto a Machiavelli, che insomma, è un autore di cui si tiene spesso in considerazione una serie di qualità letterarie, ma non dimentichiamo che l'auspicio di Machiavelli era quello di costruire una scienza della politica, cioè una scienza basata sulla conoscenza oggettiva della natura umana e della possibilità, quindi anche sulla base di quelle che erano gli avanzamenti della ricerca empirica in quegli anni, delle nuove conoscenze sui nuovi mondi che si andavano scoprendo, i nuovi metodi di studio, eccetera, l'avanzare delle scienze fisiche. Insomma, siamo negli anni in cui inizia una rivoluzione culturale che è la rivoluzione scientifica. E la rivoluzione scientifica che cambia in modo significativo la mentalità, il modo di pensare, il modo di affrontare tutta una serie anche di questioni filosofiche tradizionali, a cominciare anche dalla libertà umana, dal problema dell'organizzazione politica, eccetera, la cultura scientifica e i temi della scienza sono immediatamente, soprattutto nel 600, un punto di riferimento per i grandi filosofi della politica. Io vi chiedo mille volte scusa, ma devo dare assolutamente la linea al giornale radio perché i tempi incombono. Grazie a voi, buona domenica, Armando Massaranti e Gilberto Corbellini. Con Armando ci ritroviamo domenica prossima con Si può fare dopo il giornale radio. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, eccoci qua di nuovo in diretta, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta anche oggi. Potete commentare quello che sentite o che avete sentito, potete raccontarci che cosa ha reso più bella la vostra settimana come ogni weekend, e potete anche giocare al indovina il nostro personaggio della settimana, ma l'indizio ve lo daremo dopo la pubblicità. Anche oggi in palio mettiamo un bel soggiorno responsabile in una località scelta da EquoTube. Vi ricordo anche che la parola che abbiamo scelto questa settimana per il nostro gioco inviati circa si è cultura. Se è aperto un cinema, un teatro nella vostra città, nel vostro quartiere, volete parlarci della libreria, del museo che amate particolarmente, scriveteci a si può fare radio24.it, avete tempo fino a mercoledì. Il racconto più bello andrà in onda sabato prossimo, 800 24 00 24. Ci sentiamo tra poco. Vi ricordo anche che avremo Davide Van Desfrost col suo ultimo disco e anche il suo incarico politico di direttore artistico dell'Expo Tour in giro in queste settimane in Lombardia. Questo però dopo le 10. Adesso facciamo una breve pausa, torniamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E buongiorno anche a te Carlo Gabardini, ciao, ben ritrovato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno Alessio. Reduce ieri dal Festival del Giornalismo di Perugia, dove hai fatto insieme a me la puntata ieri. L'hai fatta sentito. Tu la puntata. Beh, io facevo da supporto da Perugia. Però tu avevi anche il pubblico che ti fava, quindi c'avevi il sostegno. È molto emozionante, devo dire. In realtà io sono più abituato a lavorare con il pubblico davanti piuttosto che senza, però la radio era la prima volta della mia vita che la facevo con qualcuno davanti che faceva delle facce e non era la tua, diciamo. È molto diverso perché la tua, diciamo, alla fine perlomeno mi sostiene. Invece il pubblico non sai mai, magari ti guarda come per dire: ma cosa stai dicendo? Senti, come è andata questo Festival del Giornalismo, insomma, il Festival dei Disoccupati? Ho detto, io ho scherzato. Oppure... Ah sì? No. Ma guarda, ti devo dire, secondo me, io al primo anno che andavo... C'è un po' di crisi, si è parlato anche di questo, c'è un po' di crisi, insomma, nell'editoria. Beh, moltissimo, però è stato molto interessante, devo dire, è stata la prima volta per me che andavo al Festival Internazionale del Giornalismo, però è un festival bellissimo, strapieno di cose interessanti, ho visto, ma per dire, anche cose un po' che esulano dal giornalismo italiano, giustamente. E ho visto panel su, per esempio, un panel bellissimo. Scusa, ho imparato che si dice panel, intanto, che è questa cosa che sono tipo dei dibattiti. È un po' come quando vai a un convegno non preparato. Infatti, anch'io ho fatto un panel, è molto tranquillizzante. Il solito inglesismo è inutile. Esattamente. Infatti, diciamo, la battuta che ha detto anche Azael, che è uno che era lì, cioè chi ha il panel non ha i denti, diciamo, sostanzialmente. E infatti, il mio panel lo volevo anche chiamare panel e Nutella, ma di quello abbiamo già parlato ieri. E devo dire, bellissimo, molto, molto ben organizzato, tantissime cose, un'offerta varia. Per dire, c'era questo panel, appunto, di una americana che presentava un suo sito, ha fatto un sito in cui monitorano tutti gli omicidi di Washington, ed è un sito dove tu puoi andare a fare le ricerche anche per detective, cioè loro ogni omicidio vanno, indagano, fanno un database. E beh, ma è una cosa incredibile, però almeno come lo raccontava sembrava veramente una cosa bella, e soprattutto questa cosa, se vogliamo, molto anche americana di condivisione, che alla fine hanno detto: guardate, noi non abbiamo soldi, però se voi avete delle idee noi condividiamo tutti i nostri mezzi, il nostro database e così via. Quindi no, devo dire, è emozionante. Però ci porti anche una notizia, diciamo, di strascico, sì, da quello che è stata la libertà di stampa, la giornata mondiale, una notizia non buonissima per l'Italia, tanto noi però in realtà, guarda, siccome ieri avevamo appunto Aldo Torchiaro da Perugia, che è stato il mio primo ospite, che sta facendo firmare questa petizione per far sì che si faccia una legge europea per la libertà di stampa, ho visto una notizia che dice che l'Italia ha scalato ben 9 posti in classifica, quindi sta migliorando in qualche modo, anche se rimane pur sempre sotto al Niger. E è interessante questo fatto della libertà di stampa. Esiste una vera e propria classifica, la World Press Freedom Index, o il forse World Press Freedom Index, e nel ranking del 2014 noi abbiamo scalato 9 posizioni, rimanendo comunque in posizione numero 49, quindi proprio una gran posizione. In che anno, abbiamo scalato 9 posizioni? Quest'anno, dal 2013 al 2014. Però devo dire che, insomma, questo è un articolo del Fatto Quotidiano. Poi sono andato a vedermi la classifica. Effettivamente i primi paesi, non so, il primo è la Finlandia, il secondo l'Olanda, il 3 Norvegia, Lussemburgo, Andorra, Liechtenstein, Danimarca. Però a onore, diciamo, anche un po' per non parlare sempre malissimo del nostro paese, basta, noi siamo al posto 49. Comunque gli Stati Uniti sono al posto 46, insomma, ecco. Non è che avevo visto prima anche la Francia è al posto 39, quindi certo stanno meglio di noi, e quindi non possiamo dire che siamo messi bene, però non è che sono tutti nelle prime posizioni. Ecco, le prime posizioni sono altri paesi tipo Finlandia, Liechtenstein, Andorra, dove c'è, insomma, il grano stanno bene, dove c'è. Se poi la libertà di stampa, diciamo, in Andorra credo che sia anche abbastanza semplice, nel senso che ci si guarda in faccia fuori dalla finestra, si dice: che è successo oggi? Quella roba lì, ciao, a posto, a posto. Poi volevo dire un'altra cosa, che oggi il 4 maggio contemporaneamente in tutto il mondo si svolgono eventi per celebrare l'uguaglianza e la dignità di tutti i generi di famiglie. Lo dico perché io appena dopo la trasmissione andrò a Bergamo a fare un pranzo e poi un flash mob con la rete Genitori Rainbow, che è l'associazione di genitori omosessuali e transessuali con figli da relazioni etero, però questa è una manifestazione che si svolge anche in tutto il resto d'Italia. Dico un'altra notizia: ieri sera, tornato da Perugia, non pago del mio giro di festival, cioè il Torino Gay and Lesbo Film Festival il 30 aprile, poi dopo l'International Journalism Festival a Perugia, sono andato al IT Festival a Milano, che è alla Fabbrica del Vapore in via Procaccini, che è un festival interessantissimo dove, se non ricordo male, 115 compagnie in 3 giorni rappresentano i loro spettacoli. La formula ovviamente non è che rappresentano tutto il loro spettacolo, ma ogni compagnia rappresenta 20 minuti del proprio spettacolo. Ieri poi a mezzanotte più o meno, quando sono finiti tutti gli spettacoli, è iniziato anche il dibattito: è giusta questa formula o non è giusta, perché è un po' una formula anche, se vogliamo, simile da altri festival, da Edimburgo, il Fringe Festival, da esperienze spagnole, o facevano anche degli esempi di bellissime esperienze in Argentina. È un festival molto interessante. Ovviamente gli spazi sono abbastanza piccoli, quindi bisogna andare con molta pazienza e non sapendo che cosa si andrà a vedere, perché ieri, così twittando, scherzando, dicevo: è anche un po' il festival della coda, però sono anche code piacevoli dove si incontrano altre persone, altri interessati al teatro, e si riescono a vedere tantissimi, diciamo quasi dei trailer degli spettacoli. Quindi è alla Fabbrica del Vapore a Milano e è molto consigliato. Ecco, questo volevo dire. 800 24 00 24. Tra poco daremo anche il primo indizio per quanto riguarda il personaggio della settimana. Cari ascoltatori, cominciate a prenotare i vostri interventi. Anche oggi si vince un soggiorno responsabile di EcoTube. La parola chiave per il contest di questa settimana, l'abbiamo già detto: cultura. Cultura, assolutamente, cinema, con la diesi sulla U, così, esatto, come la dici tu. Teatro, librerie, musei, tutto quello che volete. Se avete una buona notizia su questo, scriveteci. Potevo fare l'inviato anche da Lit Festival, porca miseria. Potevi raccontarci questa, ma vuoi fare troppe cose, però. Hai ragione. Sei come Berlusconi, che se c'è un matrimonio vuol fare la sposa, diciamo. No, non troppo. È vero, però sì, è un momento di... devo fare tante cose. Anche perché devo rispondere in qualche modo a Taormina, che da questi microfoni ha, diciamo, esternato la sua posizione, allora, diciamo, sui gay, malati, vabbè, tutta la rete in realtà si è rivoltata contro, con operazioni di tweet con baci omosessuali. Ma che cosa ha detto? Perché mi costringe a pensare a cosa ha detto Taormina, che non me ne frega niente sull'argomento dei gay, che invece mi interessa, però hai ragione. Ha detto, diciamo, delle frasi abbastanza scioccanti, dicendo che i gay sono dei malati, che hanno proprio delle caratteristiche genetiche diverse, che si può addirittura sapere se uno è gay prima della nascita. E direi che sarebbe un mondo migliore se si potesse sapere prima della nascita se uno è un cretino, così secondo me sarebbe una buona cosa. No, però questa sarebbe la vera... Tra l'altro la vera domanda è: e anche se si scopre prima, che cosa succede? Perché poi si apre uno straordinario dibattito sull'aborto, quindi non mi sembra il caso. Però io ho fatto un secondo video dopo Marmellata e Nutella, che dovrebbe uscire domani online, è stato presentato in anteprima sia a Torino sia a Perugia al Festival del Giornalismo, che se vogliamo quasi casualmente però risponde molto precisamente alle parole di Taormina, quindi quando uscirà il video ci occuperemo di quello. Ok, grazie Carlo. Allora, ma niente. Allora, adesso invece andiamo in Puglia per parlare di una storia, perché c'è un derby tra l'Ilva, da una parte, la grande industria che produce cose importanti, ma produce anche inquinamento, e chi produce sui terreni vicino all'Ilva di Taranto, la canapa. Beh, un derby assurdo, ne parliamo tra un attimo. Ogni capo deve avere un capo di mutazione. Sono un presidente in erba, ma me ne fatto della Maria, perché io lotto ma per la mia legalizzazione. Con questo splendido Caparezza per introdurre l'argomento. Allora, legalize, è difficile questo argomento, perché anche perché non si può mettere sempre Bob Marley, diciamo, giusto? Ne parliamo allora, spesso noi facciamo di questo argomento. Un breve riepilogo, perché tempo fa il governo ha aggiornato le tabelle su quello che si può o non si può fare in Italia dopo, per quanto riguarda le droghe, le sostanze stupefacenti, dopo la bocciatura della Fini-Giovanardi da parte della Corte Costituzionale. Allora, adesso è passata l'ammissibilità, diciamo, dell'utilizzo della cannabis a scopo terapeutico. E sì, soprattutto è tornata la differenziazione, se non ho capito male, tra droghe leggere e droghe pesanti. Questo è più complesso. È troppo presto per parlarne, direi. Però diciamo, questo, diciamo, va incontro a quello che già in alcune regioni italiane, il Veneto, la Toscana, la Puglia, si è cominciato a fare, cioè utilizzare la cannabis a scopo terapeutico per alcune malattie. Il problema è che non si può produrre in Italia, bisogna importarla dall'estero e costa parecchio. Contemporaneamente stiamo scoprendo le virtù salvifiche della canapa anche per quanto riguarda l'agricoltura, ma anche come prodotto da utilizzare per esempio in edilizia. Allora, la canapa salverà il mondo, vorrei dire, o perlomeno l'Italia. Mettendo insieme tutto, c'è chi ha ripreso a coltivare canapa in Puglia, con l'endorsement anche di un assessore qualche giorno fa, un assessore regionale. Noi ne parliamo con Claudio Natile, che è presidente dell'associazione Cana Puglia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Che non so se è un'associazione o se è un'azienda o se è una fondazione. Che cosa siete voi di Cana Puglia? Allora, ufficialmente siamo un'associazione, ma è un progetto comune quello che vogliamo portare avanti. L'idea è quella di ridare l'identità a questa pianta, a questa risorsa di tradizione italiana, di cui eravamo il secondo produttore mondiale fino agli anni 40, con 100.000 ettari, e il primo per qualità della fibra al mondo. E poi che è successo negli anni 40? È successo che con l'avvento dell'industria del petrolio, della chimica, delle case farmaceutiche, della carta da deforestazione, la canapa andava tolta di mezzo, e quindi hanno trovato il cavillo dell'uso come droga per demonizzare questa risorsa e chiamarla marijuana. In realtà la canapa era presente su tutto il globo, noi eravamo grandi coltivatori ed eravamo apprezzati, l'economia italiana girava intorno alla coltivazione e alla trasformazione della canapa. Io so tra l'altro che oggi in Italia a coltivare la canapa sono pochissimi, cioè c'è un centro, credo, di... E molti non si sanno, diciamo, ce n'è molti nascosti. Quelli che la fanno in casa nella vasca da bagno non diciamo, contano, diciamo. Chi la coltiva su una certa scala, c'è un centro di ricerca, credo il CNR, da qualche parte in Italia, sono forse gli unici. Adesso ci direte che cosa state facendo esattamente esattamente voi lì in Puglia, dove c'è fermento sotto questo fronte. Sappiamo che c'è il sindaco di Racale o Racale, non ricordo mai, Metallo, che aveva detto: la produciamo nel mio territorio, la canapa che serve ad uso terapeutico negli ospedali della Puglia, anziché andarla ad importare dall'Olanda. Sono tanti i temi, però facciamo una breve pausa e torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Stiamo parlando, buongiorno e ben ritrovati cari ascoltatori, di canapa, di produrre canapa in Puglia. Siamo ascoltatori di canapa, era bello. 800 24 00 24, sì, infatti. È sì. La nostra nuova radio di Alessio Maurizio e Carlo Gabardini. Bene, siete venuti in ascolto di canapa. Intanto, prima di riprendere l'intervista con Claudio Natile di Canapuglia, diamo l'indizio sul personaggio della settimana, così i nostri ascoltatori cominciano a prenotarsi per vincere un soggiorno responsabile. A sfogliare i giornali. Vuoi dirlo tu l'indizio? Lo dico io? Sì. È un film. È un film, ti vedevo titubante. Sì, titubante perché diciamo è un indizio. È un film. Prendetelo così per adesso. Poi si capirà tutto. C'è tempo, un'ora e mezza, esatto, per indovinare. Esatto. Allora, Claudio Natile di Canapuglia, io stavo ricordando che questo dibattito su produrre la canapa in Italia, no? Perché c'è questo centro di ricerca del CNR che la produce per questioni sperimentali. C'è qualcuno che dice facciamolo e poi ci siete voi che lo fate veramente. Eh beh sì. Ma cosa producete esattamente? Noi dal 2011 ci siamo posti un obiettivo, che è quello di far luce su questa risorsa, quindi informare l'opinione pubblica su quello che è questa canapa, che è una pianta, perché era bene partire proprio dal basso, in quanto viviamo in un'ignoranza inimmaginabile, inquantificabile. Quindi dalla prima semina, che c'è stata nel 2011 di circa un ettaro, abbiamo aperto un mondo all'opinione pubblica, nelle istituzioni, negli imprenditori agricoli, alle aziende, insomma abbiamo cercato di attirare l'attenzione. Oggi ci ritroviamo ad essere un punto di riferimento. È interessante cercare di attirare l'attenzione, diciamo seminando un ettaro di canapa, è molto interessante. In genere uno lo fa di nascosto, cerchiamo di non farci beccare. Scusi l'interruzione. Abbiamo invitato le forze dell'ordine a seminare con noi. Beh, bellissimo, questo è molto bello. Però chiariamo una cosa, quello che voi fate è legale o è illegale? È legale, sarebbe illegale non coltivare più questa pianta, secondo me. No, sarebbe illegale, ma per le norme italiane. Per le norme italiane è legale, dal 97 è legale a condizione che siano utilizzate semente con basso tenore di THC. Perfetto, che è quello che fate voi? Che è quello che facciamo noi, però noi non è che ci interessa la canapa solo perché ha basso tenore di THC, ci interessa far luce sulla risorsa, perché quella con alti tenori di THC è una soluzione per diverse patologie, quindi parliamo di una pianta che si trasforma in una medicina, in un mattone, un materiale per l'edilizia, un pezzo di carta, un libro, senza toccare gli alberi. Immaginate che un ettaro di canapa produce quanto 4 ettari di bosco in termini di cellulosa in soli 6 mesi. Cioè, quindi la canapa ha un'efficienza 4 volte superiore rispetto a una foresta per la produzione di carta. Sì, sì, sì. È la prima dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, oppure la Bibbia di Gutenberg, quella del 1452. Vabbè che adesso la carta dicono che stia uscendo di produzione perché si fa tutto digitale, però non è vero, e quindi già questa è una cosa. C'è per esempio una storia che avevamo raccolto in Lazio, dove non c'è ancora una legge regionale per l'utilizzo della cannabis a scopo terapeutico. Una signora che fa una battaglia per utilizzarla per curare addirittura il glaucoma agli occhi. Io non sapevo che ci fosse anche questa patologia, perché abbassa la pressione intraoculare. Sì, i cannabinoidi. Ma si sa da millenni, no? È descritta come una panacea nel 2700 a.C. in un trattato di medicina cinese. Ma infatti è interessante, mi sembra molto interessante questo fatto di recuperare che cos'è veramente la canapa, perché per esempio prima, quando diceva che negli anni 40 in Italia c'erano 100.000 ettari coltivati a canapa, io assolutamente non lo sapevo, quindi già questa parte qua mi sembra interessante. Cioè, a un certo punto si è deciso di demonizzarla in quanto marijuana, o siccome è stata chiamata marijuana, è questo che è accaduto, giusto? Sì, perché altrimenti l'industria oggi non ci trovavamo con questo disastro ambientale, economico, culturale, perché tutto ciò che si può fare con il petrolio si può fare con questa pianta, e a differenza del petrolio, che è una risorsa oligarchica di pochi, la canapa la può coltivare chiunque, quindi è una risorsa democratica. Quindi qui c'è una battaglia culturale da fare, questo che noi abbiamo iniziato a fare, coniugando anche un aspetto imprenditoriale. Quindi all'interno di Canapuglia poi sono nati diversi follow up, un network di aziende produce... Sì. Al momento che cosa ne fate di questa canapa? Non ho capito, cioè visto che è a basso contenuto di THC, quindi non è utilizzabile per scopi terapeutici, che cosa ne fate di questa canapa? Allora, al momento stiamo sperimentando come reagisce nei vari territori della Puglia. Nel frattempo ci sono aziende che già la utilizzano, per esempio in edilizia, e vi invito a fine maggio, 23, 24, 25 a Bisceglie, dove c'è la più grande applicazione in Europa di calce e canapa ad uso abitativo. È sono 60 appartamenti realizzati in canapa e calce dal nostro partner Pedone. No, vi devo ringraziare perché... Sì, aspetta un attimo Claudio, devi spiegare bene. Noi non capiamo tutto, soprattutto io che non sono il giornalista e sono lo stupido dei due. Il 23, 24, 25 maggio che cos'è che fate a Bisceglie? E c'è un evento, Abitare il Futuro, una 3 giorni in cui vogliamo coinvolgere la gente, ma anche i professionisti e le istituzioni a conoscere questa applicazione che è di calce per l'edilizia. Nell'edilizia ci sono 60 appartamenti che stanno tirando su questa grande... Cioè a Bisceglie stanno costruendo 60 appartamenti con la canapa? Con canapa e calce, sia la più grande applicazione in Europa ad uso abitativo. E quali incredibile! 60 appartamenti. Ma e quali vantaggi porta la canapa? Sono diversi, sotto diversi aspetti. Soprattutto che se sei triste puoi almeno fumarti i muri. Chiedo scusa. A livello ambientale utilizziamo una pianta, quindi che ha sequestrato 8 tonnellate circa di CO2 ogni ettaro, quindi non utilizziamo calcestruzzo, non utilizziamo cemento, non utilizziamo qualcosa che viene dall'asportazione, no? Dall'erosione di un qualcosa, ma una pianta che ha migliorato. Ma non la pianta da sola, ho capito bene, calce e canapa, le due cose insieme. Sì. E poi la calce che è naturale, è una cosa disinfettante, un materiale disinfettante molto performante in edilizia, è sempre stata utilizzata. E quindi questo biocomposito diventa molto traspirante, molto isolante dal punto di vista termico acustico, biodegradabile, riciclabile, antimuffa e antibatterico. E anti tutto. Immaginate, le case di oggigiorno hanno tutti i problemi di muffa, condense e sono energivore, sono dei colabrodo. Invece questo materiale... Beh, insomma, il 23, 24, 25 maggio dovremo sicuramente riparlarne di questa cosa che avverrà a Bisceglie, se non venire direttamente giù come media partner per seguire l'evento. Perché no? Perché questa cosa ci incuriosisce molto. Carlo, volevi dire una cosa? Sì, no, volevo chiedere una cosa, perché in realtà sono incuriosito. Intanto perché sono stato io il primo, diciamo, a fare delle battutacce, la solita battutaccia su canapa, fumare. No, perché ci stavo pensando adesso, perché in effetti, ascoltandola, è interessantissimo capire che è veramente un altro tipo di materia prima. E volevo capire, cioè, come si fa a dimenticare questo pregiudizio. Cioè, mi sembra molto difficile trovare una soluzione per cui veramente uscire dal fatto che io stesso, appunto, faccio subito la battuta per dire, sì, ti fumi i muri, sì, usi quello perché alla fin fine ti fai le canne. E quindi le chiedevo se secondo lei c'è un modo per dire, ragazzi, è veramente proprio, stiamo parlando d'altro, quindi smettiamola anche con questo tipo di battute, che tra l'altro l'ho fatta io e chiedo scusa. Guarda, io nella soluzione ci vedo proprio la vostra partecipazione come giornalisti, come media, perché solo grazie alla potenza dell'informazione si può veramente generare consapevolezza su quello che è questa pianta. Perché proprio l'informazione ha demolito il valore di questa pianta, ha demonizzato questa risorsa, quindi solo voi, insieme a chi è competente nel settore, chi sta portando avanti qualche progetto, insieme possiamo fare buona informazione. Ma intanto noi lo stiamo facendo. No, noi lo facciamo molto volentieri, però non so se sia sufficiente. Intanto noi lo stiamo facendo grazie a voi, ci documenteremo meglio per prendere anche una posizione, perché ma la posizione per è perfetta, sì, la canapa, non c'è, no, nel senso che non stiamo per niente parlando neanche appunto delle battutine sulla cannetta, non è quello. Bisogna anche arrivare anche qualche tarallino di canapa in studio anche. Ma voi siete gli unici in Italia, Claudio, a fare questa cosa qua? qua ci sono altre zone. Come lo facciamo noi, sì, siamo gli unici, ma abbiamo dato stimolo a tanti altri progetti in Italia, quindi parliamo di tante altre realtà che sono nate sul nostro modello. E tra l'altro, sì, l'ultima realtà, cioè l'ultimo endorsement che avete ricevuto, l'ultimo sostegno, insomma, o quantomeno appoggio in una dichiarazione pubblica, è quella dell'assessore regionale alle risorse agricole della Puglia, Fabrizio Nardoni, che ha detto che fa bene anche per, come si dice, per la bonifica dei terreni, cioè proprio relativamente. Vabbè, anche... non l'ha detto lui. Attenzione. No, diciamo ha detto che... in quanto assessore ha detto bisognerà replicare il modello di questi agricoltori tarantini. Si riferiva a voi? Insomma, stiamo capendo cosa stia facendo l'istituzione e quindi l'assessore citato, perché ci sono dinamiche varie in atto. Cioè? Quindi noi stiamo anche capendo come le istituzioni vogliono supportare veramente il nostro progetto, sì. Che è un progetto alquanto intransigente su alcuni... Cioè non si riferiva a voi l'assessore, si riferiva a un altro? A qualcun altro? Si riferiva a noi, però dobbiamo capire la sua posizione, ecco, se vuole veramente sostenere il nostro progetto, che è un progetto open source che mira a creare una filiera locale con alti valori di eticità all'interno, oppure supportare altri progetti che vedono solo il profit davanti. Noi andiamo avanti con un concetto chiaro, che è quello delle 3P: people, planet, profit. Profit deve essere alla fine, perché se viene prima il profitto saltano i rapporti umani e salta il rispetto delle leggi naturali. Questo è molto importante, non è solo la canapa il nostro progetto, ma è cercare di generare un nuovo pensiero. Già che l'hai detto, profit, Claudio, ti voglio chiedere anche questo, quanto vale la canapa sul mercato? Non so se si viene misurata al letto, al grammo, al chilo, boh. Al grammo, non, al grammo per altri scopi. No, vabbè, cioè... essendo una materia prima avrà comunque una valutazione, cioè, non lo so. Guardate. Un agricoltore per avere un reddito giusto, sì? Dovrebbe vedersi almeno 800 euro ad ettaro in tasca per la coltivazione di un ettaro di canapa in 180 giorni. Ma è il valore poi reale della... cioè se si riesce a produrre abbastanza canapa in un ettaro per avere questo reddito? Sì, ecco, in una filiera che stiamo cercando di creare l'agricoltore dovrebbe avere questo reddito. Poi parlare di prezzi sul mercato è un po' relativo, perché parliamo di 25.000 prodotti che si possono realizzare da questa pianta. Mica pochi. Vabbè, un po' fosse... però comunque quando la si vende a un prezzo, poi dopo qualcuno la trasforma, giusto? Sì, certo, si vendono i semi. Sì. E si vende poi la materia secca in rotoballe. Sia il seme che la materia secca si possono poi trasformare in migliaia e migliaia di prodotti. Ma l'ultima cosa prima di lasciarci, questo esperimento, diciamo, di edilizia tramite la canapa, la materia che si utilizza viene lavorata in Italia o deve andare all'estero? Cioè la canapa prodotta sì, viene lavorata in Italia e quindi... viene anche parte dall'estero, perché l'Italia, che non siamo noi, perché noi stiamo cercando, sì, di sviluppare una filiera nel meridione, non riesce a garantire una qualità del prodotto. Va bene, va bene. Comunque ci torneremo sopra, sicuramente. Grazie intanto, grazie Claudio mille. Natile. Grazie, ci mandi una rotoballa di canapa che mi sembra bellissima. Ah, un tarallino mi piace. Un tarallino mi piace. Manca la rotoballa. Presidente di Canapuglia, grazie per essere stato con noi. L'appuntamento è il 23-25 maggio a Bisceglie. Voglio proprio vedere cosa succede. Voglio vedere le foto di queste case che vengono tirate su con la canapa. Poi vado io a fare l'inviato? Sì. Mi mandi? Mi ti mandi, mando, Alessio? Ti mando, io va ci bene. Vado, Sentiamo un ascoltatore, va, prima di chiudere il blocco. Riccardo da Andria, buongiorno. Buongiorno. Senta, buongiorno. Non so se sta ancora in linea l'amico. Volevo sapere, ma la canapa che loro coltivano è la stessa che viene utilizzata in termoidraulica? Ah, bella domanda. Quei fili che si mettono intorno ai tubi prima di stringere. Essendo un'installazione, c'è ancora, c'è ancora. C'è ancora. È la stessa. Aspetti, c'è ancora Claudio. Claudio Natile, vuole rispondere? Vuole rispondere? È la stessa. È che la fibra di canapa, no? Lavorata e pettinata. Perfetto, perfetto. Poi 30 anni fa dal Teflon. Esatto, dal Teflon. Ben vengano, così evitiamo di prenderla dall'estero. Beh, è perfetto. Abbiamo messo anche in contatto, diciamo, direttamente l'installatore. Il produttore e il consumatore. Esatto, dal produttore all'installatore. ora, lui fa l'installatore, ha bisogno della canna. Poi adesso però scusa, quella roba di plastica bianca che si chiama Teflon. Non installo molti. Non ho più visto. Io non sono un grande esperto di bricolage. L'installazione prima o poi, io l'ho vista, non usano più quella roba. Non, quella non faccio battute sulla domanda, un idraulico l'avrei visto in azione. Non faccio battute. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, piccolo aggiornamento per quanto riguarda il nostro personaggio della settimana. Abbiamo detto è un film, specifichiamo meglio, il nome del nostro personaggio è il titolo di un film. È un personaggio che ha una notizia di questa settimana, come sempre. Il titolo di questo film, che è il nome del personaggio, non necessariamente è un film di adesso, e così abbiamo specificato. Sei stato precisissimo, in effetti io mi ero mantenuto molto molto sul vago, ma apprezzo invece il tuo aiuto nei confronti dei nostri ascoltatori. 800 24 00 24. Adesso è il momento delle nostre cartoline dalle periferie, perché come Renzo Piano, che ha il progetto del rammendo delle periferie, anche noi abbiamo il nostro angolo, che è quello della cartolina dalle periferie. Simone Saccucci è un operatore sociale, canta storie per passione, ama raccontare il suo mondo, la periferia di Guidonia, ma non solo, tutti i luoghi non luogo, come si dice, che incontra. Porta avanti un progetto che si chiama Rocce, Spine e Streghe, l'abbiamo già sentito settimana scorsa, lo ritroviamo anche oggi. Buongiorno Simone. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Simone Saccucci, che ha fatto spettacoli nelle case, nei circoli ricreativi, nei negozi, in una cava di marmo a Guidonia, ovunque sia possibile. Simone, oggi che cosa ci racconti? Qual è il pensiero che ci la tua cartolina di oggi? Allora, oggi siamo nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Non è più centro, o meglio, non è più considerato centro, però secondo me ha ancora alcuni caratteri della periferia. Allora, una bambina alla fine di uno spettacolo in questo quartiere mi sussurra una parola piano piano. Secondo me i bambini hanno il potere di ridare alle parole il loro vero significato. È come quando le senti da loro alcune parole, è come se ti ricordassi, hanno questo significato. Siamo a Piazza dei Sanniti, è la piazza centrale di San Lorenzo, e qui c'è un posto molto importante per i cittadini. È stato prima un cinema, poi è stato un teatro e poi a un certo punto stava quasi per diventare un casinò. Così i cittadini si sono organizzati in associazioni, movimenti, anche singolarmente, e hanno deciso di occuparlo. All'inizio era un'occupazione simbolica, poi sono passati i giorni e ci siamo ritrovati a 3 anni di occupazione e sono stato invitato al compleanno di questo posto, che si chiama Nuovo Cinema Palazzo. Durante uno spettacolo, alla fine precisamente dello spettacolo, come spesso mi capita, mi fermo con le famiglie, in questo caso erano genitori e bambini, stavamo tutti insieme, e a un certo punto faccio una domanda e chiedo: ma che cos'è questo nuovo cinema palazzo per voi? Perché dalle mie parti i posti occupati non ci sono. Ovviamente gli adulti davanti stanno tutti zitti con la faccia allibita, come spesso capita quando gli si fa una domanda durante lo spettacolo. Invece una bambina dietro mi sussurra una parola, e questa parola è speranza. Ecco, oggi a me piaceva parlare di speranza. Quando si parla di periferia, mi piace a volte che si usasse la parola speranza. Grazie Simone. Grazie. Vabbè, la storia di questo cinema potrebbe essere raccontata, meriterebbe magari qualche approfondimento. Sì. L'occupazione, qualcuno potrà essere in disaccordo su usare metodi illegali o cose di questo genere, ma a noi ci interessava il tuo racconto, le sensazioni, quello che si vive, le emozioni, e che tu ci riporti ogni settimana. Grazie Simone. Grazie a voi. A domenica mille. Prossima. Ciao Simone. Ci Ciao. Salutiamo con la canzone di Simone Saccucci, Questa è casa mia. Questa è casa mia, nemmeno a cannonate me ne vado via. Questa è la vita mia, nemmeno a cannonate me ne vado via. Sul comodino c'è la foto nostra, nonna prepara il caffè, nonno bestemmia a carte. Io con la mano tocco il divano, come da piccolo la pelle d'oca. Sul soffitto un'altra bella crepa. Questa è casa mia, nemmeno a cannonate me ne vado via. Questa è la vita mia. Tu ad 80 anni, ma dimmi tu, ne ho fatti già 50 di sacrifici qua dentro in questa casa. Tutti quanti i miei nipoti ci sono cresciuti. Noi a Villalba ci siamo nati, noi a Villalba ci siamo nati. Questa è casa mia. Nemmeno a cannonate me ne vado via. Questa è la vita mia. Nemmeno a cannonate me ne vado via. Non me ne vado via. 40 anni in cava, l'acqua spruzza sulla lama, dentro i polmoni il travertino. E mi crolla casa, mi crolla tutto addosso, ma il comune è speranzoso e quindi è tutto a posto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Una camisa con un bas di sigaretta e sti culzoni che ni sembra mai stirà. Una cravatta legata in qua in maniera e un orologio che il cuore innanzi indre, cos'è un paltò che solta in via i butoni, e scarpe pel che però le pel di ball, cos'è un profum che ho crumpa il consorzio agrari, e un bracialet che ho vinci con ti boeri, a Golbuzen e Goidane, che finalmente le venerdì, ecco il biglietto per entrare nell'ombra e guardare lo schermo al cinema Ambra. Cinema Ambra, cinema Ambra, cinema. E la pellicola la gira in pressa. E io se me ven per prua curre cadre, la luz partis dal pesce della saleta, sfiora il soffitto e la sciopan sel telon, tacca la musica e feffa il titul, due ghera al mur, adesso che un altro mood, desmentega la mia giornata impesuita, desmentega il medum manga e ricusi, per i guida, per i strade San Francisco, cuncia la macchina che ghera Steve McQueen, per i spara insieme all'ispettore Callaghan. A chi giornate che per ripioso il calendario, se riesci venga a balà insieme al luf, bali cui raz sempre mai che deparme, c'è sti calanci in saltaulte chiusena, me batte il cuore sotto l'elastico mi dà, ma col bursen e coi danè, che finalmente è venerdì, ecco il biglietto per entrare nell'ombra e guardare lo schermo al cinema Ambra. Cinema Ambra, una canzone tratta dall'ultimo disco Goga e Magoga di Davide Van der Sfros, che abbiamo il piacere di avere qua con noi oggi ospite in studio. Buongiorno Davide. Buongiorno signore e signori. Buongiorno Davide. Con un momento di preoccupazione perché stava cadendo la chitarra proprio mentre è praticamente già caduta, anche perché è stata appoggiata all'unica superficie alla quale non doveva essere appoggiata. Perché ha la chitarra, posso dire questa cosa. E se posso dire un'altra questa cosa, questa è la buona notizia. Mi emoziona moltissimo sentir cantare in lombardo. Dico lombardo, forse comasco, adesso forse ce lo spiega lui. Però mi emoziona, è un po', se mi passate, c'ho una battuta un po' campanilista, però a me personalmente mi emoziona molto. Sarà che ho anche i nonni di Milano, quindi sentire cantare in lombardo mi emoziona tantissimo. E ho sbagliato sicuramente lombardo, ma si può incostare, abito in Lombardia. Ecco, e la pellicola la gira impressa, mi piace molto, l'abbiamo appena ascoltato. Per prima cosa, Davide, siamo abituati a sentirti cantare in dialetto laghe, questa è la tua cifra, la tua proprio marchio di fabbrica. Questo ultimo disco ripercorre questo stile, mantieni fedeltà a questo stile o ci sono delle novità da questo punto di vista? Beh, il disco è prevalentemente comunque sempre sotto il segno di questo dialetto, di questa lingua. ovviamente ci sono degli switch dove alcuni switch non è milanese, switch però switch. È bello perché switch tu non lo puoi usare, o fa un switch che perché fa un switch, ma allora guarda che anche lui anche l'Ariano quando su dice Mary Wadana Mail non dice Mary Wadana Busta, una busta. Dice Odupera il Mouse, non dice Odupera il Rat. Il dialetto che si globalizza è molto bello. Ho fatto uno switch, che è una parola che ho imparato, fai conto, il mese scorso. Lo sto continuando a dire in tutte le trasmissioni perché è pratico. Ma questa è la forza dell'inglese: laddove c'è una parola che funziona, tu la usi. Il dialetto ha delle parole come arrebaton de su, è bellissima, non è traducibile in italiano. Però un pochino, dacci un indizio. Aiutatemi, che io non so. Arrebaton de su vuol dire lì schiaffeggiato dal sole, sotto. Devi usare una perifrasi per dirlo, non sotto il sole. È una poesia. Sotto il sole battente. Arrebaton de su. Siamo in maggioranza oggi, sì. Tu sei toscano e noi siamo del nord. Ricordiamoci che ci sono anche gli ascoltatori che ci ascoltano. Vabbè che la Lombardia sono 9 milioni di abitanti, sono molti, però ci ascoltano anche da altre regioni italiane, quindi manteniamo un contegno. Sto scherzando. Davide, tra l'altro, grandi soddisfazioni perché questo album è uscito da quanto? Da poco? Sì, è uscito il 15 di aprile, se non sbaglio, è uscito. Da pochissimo. Cioè, sai meglio 15 che il mese? Come sì, mai? No, i mesi. Guarda, è un caso perché io normalmente i numeri non li ricordo, ma so. Comunque che è uscito era da aprile. Poco. Adesso un numero te lo dico io, perché sei terzo in classifica dietro Antonacci e Caparezza, ma soprattutto davanti a Ligabue e a Moreno. E sono soddisfazioni. Se pensiamo che è un disco fatto comunque in dialetto. No, a parte gli scherzi, è vero. Cioè è stata una grandissima soddisfazione quest'anno perché poi l'abbiamo visto entrare direttamente al secondo posto in un modo veramente inaspettato. Qualche volta era capitato quarto, forse anche terzo in passato, ma una cosa così dichiarata, così eclatante, non era mai successa. Adesso possiamo andare a fare il giro che vogliamo, ma stiamo sempre parlando di un prodotto che è un po' di anni che si fa. Io è da un po' di anni che vado in giro per le strade e autostrade d'Italia e del mondo, ma comunque sia, sappiamo con la crisi che si sta vivendo, il tipo di rapporto che si ha con i dischi. Tutti dicono il disco è finito e poi comprano i vinili e sono tornati i vinili, certo, però dicono che il CD. Ma perché il vinile è il vinile e invece il CD è quella sensazione che se te lo scarichi, che ovviamente è illegale. Il futuro non è ancora scritto, come diceva Joe Strummer, però il disco gira ancora, come la pellicola che gira impresa. Ecco. Meno male. Io sono rimasto contento, io sono rimasto frazionato anche al supporto fisico che ho visto nei posti dove c'è stata la presentazione. Tantissime persone l'hanno comprato in coppia tripla, quadrupla, da regalare ai figli, ai nipoti. Queste cose qua ti fanno capire che va oltre la musica questo tipo di affetto. Certo. Ma i tuoi fan, scusami, forse è una domanda stupida, io sono lo stupido dei due, il giornalista è lui, ma che età hanno? Sono assolutamente transgenerazionali, perché c'è il bambino molto piccolo che massacra i coglioni, possiamo dirlo, certo. Dalla Croazia fino a Milano con la stessa canzone, non la stessa disco, con la stessa canzone. E c'è il padre, non quello, o magari un altro, e ci sono, che ne so io, quelli della nostra età, per lasciamo un po' di un velo di mistero. Assolutamente, è l'unica cosa che non dico io, è la mia nonni, età, quindi. E i nonni, i novantenni, che dicono ostica la lei del cinema Ambra la me piace. No, ma te lo chiedevo per questo motivo, perché forse è un errore, però siccome mi immaginavo che ci fossero anche delle persone più anziane, diciamo, tra i tuoi fan, che sono forse quelli che non scaricano da internet ma comprano i dischi, quindi era una domanda tendenziosa. Quelli sono pericolosi dire. Perché quelli vorrei la cassetta, che quelli... perché poca roba ma meglio di la cassetta. Beh, la musica set, allora ho visto. Senti Davide, ricordiamo anche questa cosa qua. Il tuo nome Van des Fros vuol dire vanno di Frodo, no? Yes. È stato detto. Come mai hai scelto all'epoca questo nome? Perché suonava bene. Per avere delle gabole subito con la finanza, subito appena passavo il confine. Ah sì, lei sarebbe Van des Fros. Che perché già pensai al mercato svizzero. Ma perché era un deficiente, perché ovviamente io avrei dovuto chiamarmi Neck, Raff, Dav. Senza riferimenti, Neck, Raff. Sono sicuro, perché invece è stata una scelta che a lungo, io mi sono affezionato a questo sproloquio di nome. Assolutamente particolare. Mi faceva venire in mente proprio i Van der Graaf Generator, i Van Allen, i Van Helsing. fanno tutte quelle cose van basten, che in dialetto vuol dire vai bastano. Quando hai scelto questo nome d'arte? L'ho scelto veramente tanti anni fa, quando il primo gruppo si chiamava Desfroos, proprio di Frodo, sì. Siccome facevamo una musica proprio che voleva celebrare un po' quel territorio di confine tra l'Italia e la Svizzera, molto borderliner come direbbero adesso, e così parlando col barbiere, che ormai questa gag la sappiamo da anni, lui disse tutta una roba Desfroos, e lì nacque il nome del gruppo. Allora da lì ognuno si diede un nome. A me piaceva l'idea dei Ramones, che si chiamavano tutti Ramones, anche se non erano fratelli, era bello chiamarsi tutti Van Desfroos di cognome, però invece diventava magari Van Desfries, Van Desfroos, tenevano che fermassero solo te, diciamo, la finanza frontiera. Esatto, io mi sono citato i Ramones, che tra l'altro sono gli autori della sigla che utilizziamo per Inviati Cercasi. Goga e Magoga, invece, che cosa vuol dire? Lo sentiremo dopo la pausa. Per il traffico, solo questo dici adesso? Non si può dire in due parole Goga e Magoga, cosa vuol dire? Il titolo dell'album? Sì, ma si può dire. Quanto tempo abbiamo? Dobbiamo farlo dopo la pausa. Allora, facciamo un bellissimo racconto. Suspense, traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. E naturalmente con Davide Van Desfroos. Davide, ci dai un minuto però, perché dobbiamo fare una cosa nostra. Ci tengo proprio, è dall'inizio della puntata che ci tengo. Dobbiamo dare la linea agli ascoltatori. Ma tu intanto accorda la chitarra, che dopo ci fai sentire qualcosa. Esatto. Gli ascoltatori, per il personaggio della settimana, vediamo, o anche se vogliono commentare quello di cui abbiamo parlato prima, Serenella dalla provincia di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io direi essere John Malkovich. Quindi John Malkovich. Cioè sì. Il titolo del film è quindi il personaggio. Perché sarebbe John Malkovich il personaggio? Qual è la notizia? Perché voi avete detto che contiene il suo nome nel film. Sì, però deve esserci anche una notizia, diciamo, legata a questo personaggio avvenuta questa settimana. Se no vale tutto, è molto di più difficile. Accidenti, questo non me lo ricordo. Va bene, no, che ci desse una bellissima notizia su John Malkovich di questa settimana. È un modo anche per ripercorrere le notizie della settimana. Grazie Serenella, comunque mille. Non era lui il personaggio, abbiamo detto appunto che il suo nome è il titolo di un film. Sentiamo Mauro da Perugia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io ho pensato a Star Wars. Star Wars. E qual è il personaggio? Star Wars? Sono un po' tutti. No, ho pensato a questo perché oggi a Roma c'è lo Star Wars Day. Quindi si è collegato. Deve mettersi insieme la signora che ha chiamato prima, perché lei ha la notizia e la signora aveva il personaggio. Quindi perfetto, fate una coppia di fatto. Grazie. Purtroppo Mauro. Non è Star Wars, però grazie mille di averci chiamato. Possiamo aggiungere un indizio a questo punto? Sì. Per facilitare un po' gli ascoltatori, abbiamo detto il nome è il titolo di un film. Gabardini, adesso. Aggiungi. No, ti lascio questo onore che ti compete. È giusto? Donna. È donna. Aggiungiamo questo. Poi tra poco. Sono crollati tutti dei Ben Hur, dei Charlie Chaplin. Mi immagino proprio sì che crollano, che cadono uno via l'altro. Sentite le note della chitarra di Davide Van Desfroos che si è che messo. Non è posto... lui, che non è lui, che non è il personaggio essere, della settimana. Essere Davide Van Desfroos, non è lui, sarebbe stato troppo facile. Fuorviante. Però ci devi una spiegazione. Goga e Magoga, l'avrai già detto in altre interviste. È un disastro da spiegare veramente, perché Goga e Magoga è proprio il titolo assoluto per creare caos e per confermare questo caos che stiamo vivendo. Goga e Magoga può voler dire fai e disfa, è andato tutto alla malora. Andare in Goga e Magoga, come andare in Mona o come andare molto lontano in modo anche un po' esotico. Far Goga e Magoga, far tirra, molla e meseda, cioè hai fatto quello che hai voluto fino adesso. Da lì la citazione nell'incipit del disco del buon Lope, che giocando a carte disse et fa Goga e Magoga fino adesso e adesso te me giughi tu un set bel punto di domanda. Questa la devi tradurre però, eh? Hai fatto tira e molla fino adesso e mi butti giù un set bello. Sette bello. È da lì che tanti anni fa... Perché questo modo di dire è andato molto in disuso adesso, ma veniva usato in tutti i tempi. Eh beh, sì, anche in Inghilterra lo usano poco, come hanno detto ultimamente. Gog and Magog. E comunque suona benissimo, ecco perché anche... Deriva dalla Bibbia, comunque c'è qualcosa di profetico. Abbiamo scomodato anche dei teologi che hanno riportato poi citazioni di Ezechiele. Gog, della terra di Magog, quindi certo. Il male che avanza, ma solo Dio trionferà, oppure Gog e Magog, i due giganti delle fiabe anglo-scotto-irlandesi, vai poi tu a cercare dove. Effettivamente, quando prima dicevi non lo si può spiegare in due parole, sì, esatto. Le due parole sono Gog e Magog, tutto il resto è poesia. E quando tu la senti questa canzone, c'è cioè proprio questa scordatura Gog e Magog, tu devi, senti che è esotico, senti che Ardasha Serua sarà nella ragusta curazzata, ciruaghi nella nebbia, che sughe nel diluvio con te strash, e vorre un tut quel che gerummena, per cerca tut quel che gerumpie, e scappa un di ogni siti in due ruaum, per cerca un oltru si della saindre, goga. E Magoga, la macumba se la terra che suffega, Goga, e Magoga. E poi dice anche cose del tipo: il futuro in barcavela chi lo paga? Vedi che switcha con l'italiano a volta. Goga, e Magoga, se spargiamo un po' di sangue tanto asciuga. È anche urticante, no, come canzone. E quindi tu vedi che ci sono queste visioni antiche che si infondono poi con parole moderne, perché quando uno parla in dialetto, anche nel parlare quotidiano, su una Milano me ha trovato un parcheggio, non ho trovato un posto, traduce se stesso per dare ancora, ancora più enfasi. Vogliamo sentire allora un po' di Goga e Magoga? Ce l'abbiamo la versione, però cioè, è bellissima, no, è emozionante qua dentro nello studio, sì, veramente sì, bello, sì. Giù sul fondo c'è il passato, ma rifleste quel che sembra in superficie. Verde rame, la speranza, e cemento armato di pazienza. E l'arcangelo te presta la sua ala, per suga il lacrim di Deutsch. E l'arcangelo te presta la sua ala. Ma non che se ne ha un dente il naso, se non bastano quadri, fiori e picche, davvero manca il cuore come cordel. Davide Van der Sfross in studio con noi, è un grande piacere averlo qua oggi, però dobbiamo parlare un po' anche di politica. Perché a parte che c'è una notizia che ti riguarda e che riguarda Expo, ne parliamo tra un attimo. Tu tempo fa avevi detto: io non ho mai votato Lega, non vado a votare da un po' di anni. Hai continuato a non votare in questi anni o sei andato invece? Ho continuato a temere molto la politica così come è strutturata, a non capirla. È un problema mio, non seguite il mio esempio. Condiviso anche da molti italiani. Ho avuto grossissimi problemi. La mia è una crisi profonda che non si è assolutamente risolta. Poi ho trovato il modo di interfacciarmi con persone che derivavano dalle varie latitudini della politica italiana, compreso anche il mondo cattolico e così via, e là dove ho identificato dei punti di riferimento per me saldi, lì io mi sono messo a disposizione. Tu hai detto: ho suonato nei centri sociali, ho suonato dove c'era Comunione e Liberazione, ho suonato la Lega e mi dicono che sono della Lega perché canto in dialetto, sì, ma quello... in realtà che rapporto hai però tu con questo partito particolare, la Lega, che comunque ti ha sostenuto, ti ospita spesso alle feste, ti vuole particolarmente bene, ne sei un simbolo in qualche modo? Sì, essendo molto legato al territorio e cercando di lavorare come sto facendo in questo periodo per questo territorio, io mi concentro su di esso. Ovviamente, abitando in Lombardia, molte di queste persone appartengono al partito della Lega e sono e fanno dei tentativi per valorizzare determinate zone. Come in tutto, ci sono magari persone che si aggrappano alla parola territorio perché è un momento che può far comodo. Altri li ho visti molto sinceri, come quando organizzammo dei concerti o degli eventi proprio qui a Milano, che avevano a che fare proprio anche con i dialetti d'Italia, di Lombardia, ma non solo. Laddove mi danno carta bianca, come in questo caso, questo essere direttore artistico dell'Expo Tour Terra e Acqua in Lombardia, portando avanti tra l'altro un progetto che è nato da noi, dal mio ufficio, che era questo Terra e Acqua, un format multimediale, Io mi sento al posto giusto perché riesco a fare quello che va fatto. Chi mi ha dato fiducia, in questo caso la Regione Lombardia, oggi come oggi, è il terzo, ormai è il terzo appuntamento, perché sarà un appuntamento ogni mese, una città di Lombardia ogni mese fino al 2015. Abbiamo fatto quindi Bergamo, abbiamo fatto Brescia, abbiamo fatto Pavia, il prossimo è Milano. E ogni volta io vado a prendere dei cosiddetti musicisti a chilometro zero, ovvero delle persone che magari sono conosciute o non troppo conosciute purtroppo, ma che fanno questo genere di musica, questo tentativo di essere legati ancora al territorio. Poi quando si parla di feste politiche generalmente viene messa subito in primo piano la bandiera che lì trovi. La gente lo sa che io non sventolo bandiere e nei miei testi non troveranno mai nessuno slogan partitico. La mia politica è una politica molto di strada, molto legata all'uomo nella sua essenza e alle persone. Quindi io quando vado anche con una certa così curiosità antropologica a queste feste, e sono stato veramente un po' da tutte le parti, ma non per essere una banderuola, proprio perché dicevo, se io ho fiducia nella mia canzone posso cantarla a chiunque. Vai, perché così ti davano la possibilità di dire quello, sì, che credi. Mi dicevano, noi ti vogliamo perché voglio che tu canti le tue canzoni. Allora io lì non mi sono mai fermato. Se mi avessero detto vieni qui e cantaci questa cosa, sarebbe stato diverso. Io dicevo, certo, non posso fare questa cosa oggi. Beh, questo, sì, però è importante, sì, ricordare, perché in effetti è vero che sei percepito come, cioè, l'affermazione è molto precisa, non ho mai votato Lega, poi dopo ognuno ci fa valutazione. Guardate che è comunque molti giornalisti hanno fatto comunque hanno scritto cose, specialmente all'inizio quando c'era confusione. Questo qui lo vedi che canta in dialetto, che è lì, che lo vedi con dietro una bandiera, non puoi neanche colpevolizzare il giornalista. Ma abbiamo, certo, bisogno sempre delle etichette. Però un parente di Bossi che hai citato, però la cosa dell'Expo, di cui sei appunto direttore artistico di questa tappe che Expo fa nelle città lombarde per far anche spiegare alle persone, per far capire, sì, alle persone, secondo te cosa ha capito la gente oggi di quello che sarà Expo? Se ne parla molto nei telegiornali, se ne parla molto per gli appalti, ma l'evento secondo in sé... Secondo me la mia prima così sensazione dopo aver fatto queste date, aver visto le piazze anche molto piene sia di pomeriggio che di sera, specialmente a Pavia dove l'abbiamo fatta all'aperto, c'è molto fermento, c'è molta frenesia, c'è anche un po' di caos e secondo me non c'è ancora del tutto la compressione e la comprensione esatta di quello che dovrà essere. Tutti sono abbastanza preoccupati di un'ipotetica bella figura o brutta figura fare, che potremmo fare e che dovremmo fare. Però comincia a capire, perché si fanno nomi, si fanno assaggiare prodotti, si fanno vedere comunque alcune cose molto di qualità e c'è la sensazione che non siamo poi questa regione così classificabile con una riga di penna come la Madonnina, la Nebbia, il Comenda e il traffico. C'è Lombardia ad là della Fiemma dalla parte di Mantova, c'è Lombardia a Livigno. Questo è vero, che ce lo si dimentica, c'è sempre Lombardia, uno pensa che sia solo Milano e soldi. C'è Lombardia che vai su nelle valli dove ci sono ancora le miniere, così. E beh, poi c'è la Lombardia, certo, anche del traffico, anche del parcheggio che non lo trovi, così. Ma ci sono prodotti e prodotti e stanno uscendo delle grandissime speranze, dei giovani, magari ventenni, venticinquenni, si sono rimessi, li abbiamo incontrati a Pavia, nella Bergamasca, alcuni si sono rimessi a fare i coltivatori, alcuni si sono rimessi a fare i viticoltori, cercando poi di portare avanti tutto. C'è con un movimento quello che sta avvenendo, no, alla luce, sta avvenendo un'ottima retromarcia verso quel passato che ci sta insegnando. E che è un po' quello che tu hai sempre raccontato. Esatto. Qua il cerchio, e che raccontiamo, vogliamo, anche noi, è proprio quello che raccontiamo anche noi dal nostro piccolo punto di vista. Voglio chiederti se vuoi intanto immaginare, prepararti qualche altra, farci sentire qualcosa se vuoi, Davide. Nel frattempo però ti voglio fare un'altra domanda. Non ti chiedo se rinuncerai al tuo digiuno elettorale in vista delle europee, ma che cosa ne pensi invece dell'Europa? Sì, cioè qual è il tuo rapporto, cosa ne pensi, come la vivi adesso? E la vivo come quando parliamo, anche noi abbiamo avuto nel mio territorio, c'è stata la fusione dei comuni, siamo tornati comune di Tremezzina, alcuni comuni si sono uniti e potrebbe essere qualcosa, potrebbe essere una falange, una coinè, potrebbe essere qualcosa che aiuta. così come l'Europa unita. L'Europa unita mi fa sentire la sensazione di unione se noi dicessimo: eccoci qua, siamo l'Europa unita e andiamo tutti a Gardaland con la corriera, così almeno spendiamo meno, siamo tutti uniti, saliamo su questo pullman, no? E ci siamo su tutti. Poi sul pullman possiamo discutere, possiamo vedere e fare, però facciamo, se cominciamo a dire siamo l'Europa unita, però ognuno andiamo a Gardaland, ognuno con la sua macchina, e uno si ferma all'autogrill prima e quell'altro t'ha sorpassato perché doveva arrivare primo e quell'altro non ce la fa, allora a quel punto lì io comincio ad avere un po' di dubbi. Quindi io sono l'ultima persona che può venire qui a spiegarvi o a raccontarvi cosa succederà in Europa. Se l'Europa è unita e diventa, ricordiamoci che l'Europa è nata anche grazie a questa Italia qui, che può essere Italia sì, Italia no, come dice Elio, ma Elio, gente, ricordiamoci un attimo chi siamo, da dove veniamo, cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo contato per l'Europa e per il mondo. E certe cose adesso, che con la velocità, con la sufficienza dello sguardo di alcuni, può sembrare ecco i rivali italiani a rompiballa adesso, scheisse l'Italia, scheisse vuol dire merda, così lo spieghiamo anche porta fortuna, porta fortuna. Allora queste stelline, se noi siamo dentro nella coroncina di stelle della bandiera dell'Europa unita, dobbiamo prendere consapevolezza di volerne far parte, no che un giorno se però l'Europa sì però l'Europa no, e con gli altri dicono allora, perché se no stai sul pullman o scendi. Noi siamo la Turchia, come questi qui dicono qua, la Turchia ha fatto così, la Grecia ha fatto cosà, noi chi siamo, cosa vogliamo fare? Ragazzi, le due più grandi tragedie, quelle che fanno più paura all'uomo comune, sono la prima, la guerra nel mondo, la seconda, l'assemblea condominiale. Se tu non riesci ad andare d'accordo nell'assemblea condominiale, non puoi sperare di entrare in Europa. Cioè, e soprattutto di fare la guerra nel mondo, diciamo, a esatto, quel punto. Invece in realtà mi sembra una metafora molto lucida, quella, soprattutto quella del pullman, di dire va bene, se siamo tutti sul pullman sono un po' fissato con le corriere, potremmo dire il battello. No, invece è perfetto, è perfetto. Adesso Davide, se vuoi restare ancora 5 minuti giusto con noi, 5 ci fai minuti? Sentire ancora qualcosa? Sì, ma devo riaccordare la chitarra perché... Nel frattempo facciamo la pausa, ti diamo se fate la pausa la riaccordo. Vai, va bene, tra un attimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Lenta e galena fregia e un fantasma in sulla veranda, barbera come petroli e anche la luna mi par che sbanda, cadrega che fa frecas e buca verta che disnagut, duma la radio sgrafigna l'aria e i pensè fanno un gran casot, le menga vera che nel silenzio dorma duma la malinconia, che vorrebbe dire, tu che sei un traduttore, dorme soltanto la malinconia. Lo spleen perché Corazzini. Non solo dialetto, usiamo parole anche come lo spleen. Ma prima questa com'era il titolo? Pulenta e galena fresa, attendendo e la curiera che la va in Europa. Quindi tutto torna dalle forze troppa, perché dopo ogni cosa diventa instant song. Noi. Senti, ma la tua musica può essere definita folk, country, come può essere catalogata? La mia musica può essere definita, può essere ricantata o ascoltata o anche ignorata, però ovviamente folk è un termine giusto, perché nasce comunque con degli accordi molto basilari, molto semplici, la può suonare il bambino, la può suonare suo nonno, la può cantare uno sotto la doccia nell'osteria. Infatti prima... E quindi è molto radicale, molto, molto rude. Senti, la domanda come nascono le tue canzoni, bisogna sempre farla a un cantante. Ma anche no, se è un cantautore. Allora, sul come nascono, possiamo anche parlarne per giorni e giorni, l'ispirazione, tante belle balle. È come certe volte muoiono che mi fa paura. E forse è più interessante quando vedi certi che provano a cantarle e tu ti rendi conto che ci butta dentro un po' quello di che tutto. Vogliono e credi che forse è un po' esagerato tante volte. Ma prima mi hai detto che sulla carta d'identità non hai scritto musicista. Bravo, perché mi sono fatto scrivere come dire, sei fantasista, volevo farmi scrivere, certo. Però era impossibile, allora, ma libero professionista, perché non sapendo io la musica, quella scritta, avevo il terrore che un giorno, tra le varie vicissitudini, tra confine, non confine, ti facessero qualche domanda, ma scusi, lei allora musicista, e lei il musicista, sì, Allora, sai, io ho una testa un po' di quiz, per cui nei miei incubi mi vedo, allora adesso mi suona quella roba qua, se lei è un musicista, perché è un batterista che avevo, gli hanno fatto tirare fuori la batteria in dogana, gli hanno fatto suonare, che è stupendo, che doveva dimostrare che era sua la batteria, che non stava portando in giro roba di contrabbando. Senti, quindi... sei stato a Sanremo, ci torneresti? Io sono stato a Sanremo in un momento speciale dove mi sono trovato molto bene e inutile negarlo, abbiamo avuto un riscontro poi di pubblico e di notorietà notevole. Non tutti i Sanremi sono uguali, quello di quest'anno probabilmente non era particolarmente adatto e credo non interessasse molto una canzone in dialetto. Noi avevamo mandato un brano, ma è stato detto che c'era troppo dialetto e probabilmente non era il momento di cantare una canzone così. Certo. Oppure bisognava togliere tanto dialetto, elaborarla, sistemarla, ma qui torniamo al discorso di prima. Allora a quel punto dico, devi no, far altro rispetto... non mi interessa, perché io faccio queste cose e... Ma perché ti è stato chiesto di riaprire? Non è stato chiesto esplicitamente niente a me, ma parlando con i discografici mi sono reso conto che la canzone era simpatica secondo loro, ma non era il tipo di target che loro cercavano. Certo. Quindi ci può quindi stare un altro benissimo. Festival con un altro target, Carlo. Ma perché Conte no? Perché no? Come se c'è stato in quel momento dove si voleva fortemente una canzone che suonasse come lingua diversa, mettiamo che un domani ci voglia essere, facciamo un'ipotesi. Un supergruppo dove in una canzone si potessero incrociare il napoletano, il sardo, l'ariano e che ne so io il siciliano. E fare l'Italia, diciamo. Ma no, fare una canzone fare con delle sfumature. Allora sarebbe molto interessante poterci andare, no? Oppure magari hai una canzone che sembra proprio fatta apposta per andare a Sanremo, oppure sei disperato e hai proprio bisogno di andare a Sanremo. Sono tanti motivi che possono farti tornare. Certo. Tu che musica ascolti quando non ti riascolti e magari non ti riascolti mai? Solo quando ho appena fatto il disco, per capire che cosa abbiamo combinato, poi generalmente scappo il più lontano possibile dalle mie canzoni. Quando sei in macchina io ascolto, vabbè, ovviamente tantissima musica di cantautori stranieri, italiani e gli storytellers americani e così via, però ascolto anche tantissimo heavy metal estremo. Questa è una notizia. Sì, mi piace il punk, mi piace tutto quello che è stato gli anni 70. Ma hai sentito l'attacco di Gog e Magog? Si sentiva una bella base rock, si sentiva che c'era. E poi c'ho questa fissa per la musica elettronica, quella un po' più ambientale, di musicisti che non credo neanche che esistano. Che però questa non traspare molto dalle tue canzoni. No, perché quella è proprio la musica che ascolto io per decomprimermi, quindi... Ma ogni tanto però con questi aggeggini, gli iPad, le cose, anch'io le faccio. Ma con i sintetizzatori? Sì, faccio delle cose che poi metto sotto le immagini che giriamo quando facciamo i documentari, queste cose. Mi piace molto la musica, quella non memorizzabile, non riconoscibile, che ti crea quel tappeto sotto, come anche un certo jazz, una certa classica, la lasci andare e che tu stia scrivendo, che tu stia viaggiando, non hai dentro... Perché io... divento anche molto compulsivo dopo, se una canzone mi si pianta dentro poi comincio tutta la notte a riascoltarla mille volte, mi fa paura questa cosa. Devo dire che sono sorpreso personalmente, perché oltre a cantare bene, questo già lo sapevo, Davide Van der Stross è anche una grande compagnia, una grande soprattutto capacità di parlare metal, soprattutto ascolta esatto. Il metal, che è una notizia, diciamo anche che la prossima, non so se è la prossima data, il 13 giugno all'Ippodromo di San Siro di Milano. Sì, concerto? Sì. Questo possiamo dirlo? Mi pare di sì. Beh, San Siro, sicuramente. San Siro, stiamo dicendo. Ma stiamo in calopatoio, sì, no? Sì, che sì. Non è che andiamo giù a vedere. Non esageriamo adesso. Ma è un posto bellissimo l'Ippodromo di San Siro. Sì, grazie, Davide. E lì presenteremo ufficialmente il disco Gog e Magog. Grazie mille per essere stato con noi questa domenica. Grazie a voi tutti, grazie. Noi ci fermiamo un attimo, facciamo una pausa per il traffico, poi torniamo, ultimo spicchio di trasmissione. Dobbiamo ancora sperare che qualcuno indovini il nostro personaggio della settimana. A tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. Con il campanello, col cestino e la pompetta, vola, vola, vola sulla bicicletta, vola sopra il traffico, vola sullo smog, risparmio la benzina, mi diverto e faccio sport. Questa è la mia droga, non ne posso fare a meno. Se il tragitto è lungo me la carico sul treno. Macchine, chilometri, fatichi sempre poco. Con un carro al seguito puoi fare anche un trasloco. Me la porto in casa, vado su con l'ascensore, la pendo alla parete e poi la lucido per ore. Veleggio, pedalo senza fretta, plano e galleggio sulla sulla mia bicicletta. Non gli abbiamo chiesto a Davide Van der Sfros se va in bicicletta. Hai ragione. Come te che non la usi. Beh, soprattutto che vai solo se, in motorino, mamma mia. Esatto, soprattutto se ci faceva una canzone. Oggi non abbiamo messo Pedala. E quindi Pedala, questo è una notizia. Parliamo di bicicletta perché c'è una iniziativa che viene da Rovereto e che riguarda, direte voi, sì, il bike sharing, c'è cioè da tutte le parti, queste ormai in molte città, insomma, le biciclette condivise, si mette la tesserina, si prende la bici, si porta da uno stallo all'altro e si utilizzano pagando un canone o un abbonamento più o meno basso a seconda delle città. A Rovereto non si paga niente, avete capito bene. Ne parliamo con il sindaco di Rovereto, Andrea Miorano. Andy, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, la prima battuta ovvia è lo potete fare voi che siete molto vicini al confine con la Germania, diciamo, e che quindi avete un alto senso civico, che in Italia è un luogo comune, ma è anche una verità, normalmente scarseggia. Prima di fare la battuta però di commentarla, spieghi bene la notizia, cioè avete messo veramente gratis il bike sharing o i giornali hanno esagerato? No, è proprio così. Abbiamo dotato la città di circa una trentina di biciclette di colore giallo-verde, lasciate così, alla libera circolazione, nel senso che i cittadini possono prenderla quando vogliono, lasciarla dove vogliono e ovviamente lasciarla in un posto che possa essere, come dire, presa da un altro. Che poi non in casa propria, diciamo. Non in casa propria. Esatto. No, per noi che facciamo un problema, che si può fare, è chiaro che questa notizia era più si può fare di così, non c'è. Ma come mai avete preso questa iniziativa però? Cioè, qual è il ragionamento che c'è a monte? Oltre a voler fare qualcosa, diciamo, che farà piacere sicuramente ai cittadini, che saranno felici, penso. Però, certo. Ma i ragionamenti a monte sono quelli di creare una cultura della mobilità alternativa, una cultura della bicicletta, ma poi bisogna sapere che queste biciclette hanno anche un valore sociale molto alto, perché sono realizzate da biciclette recuperate dai cittadini, e chi le ha recuperate, colorate, sistemate sono dei ragazzi sfuggiti dalle guerre, sono profughi che sono ospitati nella città di Rovereto, che lavorano per adesso per una cooperativa, e quindi insomma un bel progetto di reinserimento sociale. Ma quindi sono biciclette recuperate? Tutte recuperate, non ce n'è una nuova. I cittadini sono invitati a donarle al comune. Quindi più biciclette ci sono e più ci sarà successo. E questa mi sembra la parte più bella della notizia, perché forse è un modo per cui le biciclette in realtà appartengono già alla collettività e vengono rimesse in circolo. Perché io ricordo che a Milano, se non sbaglio, a Milano venne fatto un progetto così e vennero rubate tutte le biciclette nel giro di pochissimo tempo. Invece così forse voi siete riusciti. Le biciclette sono dei cittadini, sì, circolano, cioè da cittadino a cittadino, con questi ragazzi immigrati che le sistemano, magari le aggiustano, le recuperano quando si rompono. Ma insomma è un modo per già, perché c'è anche la manutenzione ovviamente di queste biciclette. Sì, tutto il progetto per una trentina di biciclette fino adesso il comune è costato neanche 500 euro. Ma scusi, uno prende la bicicletta, poi la usa e qua ma deve mettere una catena, no? Perché così no. Perché il rischio è che io vado di corsa in posta, metto giù la bicicletta, entro per fare un bonifico, poi esco e la bicicletta l'ha presa qualcun altro. Questo può giusto? E come torno a casa? Può anche essere questo, ma ce ne sono tante in giro che non è un problema poi vedere. Basta girarsi da un'altra parte. Quanti abitanti ci sono? 40.000 abitanti. 40.000. Beh, no, una media cittadina non piccolissima. Le biciclette bisogna aumentarle. Non sono moltissime, 30, però insomma, intanto ci hanno provato. Senta, ma da quando siete partiti con questa iniziativa? Da quanto tempo? Da settimana scorsa. Abbiamo fatto una prova generale l'estate scorsa, che ha funzionato bene, su una ventina di biciclette solo una è stata danneggiata. Adesso ripartiamo alla grande per la prossima estate, poi le lasciamo tutto l'anno. Quindi c'è stata una bicicletta, ma rubata nessuna, nessun furto? Una sola è stata ritrovata. Ma anche perché poi credo che sia difficile farne il censimento, nel senso che come fate a sapere se sono state rubate o se c'è qualcuno che ha deciso di andare in bicicletta a Bologna? Quindi torna molto tardi. Un po' la tecnologia e un po' la comunicazione. Allora, dal punto di vista comunicativo, la bicicletta sono colorate con bei colori vistosi del comune, ma al di là di quello c'è un microchip all'interno per poter riconoscere che sono biciclette dei cittadini. Quindi questo è molto interessante. Quindi, se te la rubi, quindi sono monitorate. Sei riconoscibile, sì. Sì, ma non è monitorato il movimento, ma semplicemente è riconoscibile, come fossero taggate, insomma, come fosse un... Certo. Ma voi a Rovereto avete anche il bike sharing, quello normale a pagamento, con l'abbonamento? Arriverà nelle prossime settimane, per tutta la provincia di Trento viene offerto il bike sharing anche in città con 60 biciclette classiche con tessere. Però in quel caso sarà come dire, un servizio che si affiancherà, cioè bike sharing a pagamento per chi vuole essere sicuro comunque di averla, poterla trovare e utilizzarla, invece queste biciclette che circolano liberamente, gratuitamente, un servizio in più insomma del comune. Un servizio in più innovativo che altre città in Europa ci stanno guardando. Abbiamo fatto così una presentazione del progetto nella città di Berlino e vorrebbero estenderlo anche lì, perché sembra appunto che questo progetto abbia una forte valenza comunicativa, quasi una provocazione se vogliamo, anche per sfidare il senso civico dei cittadini, e quindi insomma sembra che ci sia l'interesse di altre città, e questo fa anche Europa, no? Beh, è un progetto bellissimo, bello, chiudere così bello. Con l'Europa, meglio di così non potevamo sperare. Grazie sindaco di Rovereto, grazie, Andrea Mirandi. Grazie mille. Grazie a voi. Arrivederci. E insomma, Eto, biciclette gratuite bello in giro per Rovereto. Ma secondo me l'idea è stata quella vincente, mi sembra quella veramente di fare che siano, sì, perché diventano più parte della comunità, se no arrivano da fuori due camionate di biciclette e uno se le ruba e poi costano meno. Esatto, è molto bello. Vediamo un po', siamo in chiusura. Speriamo che qualcuno indovini il personaggio della settimana. Silvana da Rimini, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, il personaggio credo sia Erin Brockovich. E come ha sentito lei stessa da questo applauso, sì, avrà dedotto che ha indovinato. Sì, beh, riguardo poi allo scandalo della Solvay, no? Ecco, no, adesso ci deve raccontare la notizia. Allora, la notizia, beh, il film della... Va benissimo, quello era l'indizio. Sì, esatto, questo riguarda l'indizio. Però c'è una notizia che riguarda Erin Brockovich, che recente, una notizia di questi giorni, insomma. Sì, perché si è scoperto che questi rifiuti che venivano non smaltiti secondo le procedure, ma che hanno inquinato praticamente tutta la zona. Sì, sì, no, questa è la storia che viene anche raccontata nel film. La notizia di questa settimana è che sempre lei, perché è un personaggio vero, oltre a Julia Roberts che l'ha interpretata nel film. Sì, tra l'altro fa un cameo anche nel film, lei fa la cameriera. Esatto, però lei che è un attivista adesso si sta mettendo contro la Bayer per anticoncezionale che causa dolori e depressione alle donne. Esatto. Era questa la notizia, sì. Però complimenti. Gliela diamo comunque buona, anche se non era proprio stata precisissima, azzeccatissima. È stata bravissima, complimenti. Brava, vince un soggiorno. Grazie. Responsabile di EcoTube, vada sul sito a vedere una bella località dove recarsi nella sua zona, insomma. Poi riceverà comunque il cofanetto nostro da parte, insomma, di Radio Molto TV. Bene. Ce l'abbiamo fatta una anche bella per domenica oggi. Con Davide Van der Sloss. Io l'ho già detto, per me è una bella scoperta. Okay. Io poi oggi vado a Bergamo, volevo ricordare che quindi alle 16 ci vediamo tutti in Piazza Vecchia a Bergamo a fare un flash mob di abbracci gratis. Tutti quelli vabbè che vogliono. Grazie Carlo, grazie anche ad Andrea Piana che ha scritto con noi il programma, Giorgio De Luca in redazione insieme a Camilla Tomadini, oggi in assistenza in redazione con Carmelo Loricella in regia. Grazie a tutti, ci vediamo sabato prossimo. Buona giornata da Alessio Maurizio e da Carlo Gabardini. Ciao.